Ad alta voce, Valentina Carnelutti legge Jules Jimes di Henri-Pierre Rocher, edizione Gallimard, 1953, traduzione di Ena Marchi. Odile ricevette un bel po' di lettere da Parigi e dal suo paese. Non ne parlò, ma da quel momento trattò Jules Jimes con severità. Un giorno volle comprare dai pescatori 6 grossi astici vivi, da poterci giocare. Bella idea, ma costosa. Jim le spiegò che il loro modesto bilancio ne avrebbe sofferto. Furiosa, lei lo accusò di essere avaro. Non le pesava vivere semplicemente, ma era abituata a disporre di denaro ogni tanto per i suoi capricci. Giocò alle corse per corrispondenza a Parigi e a Londra. Un mattino la lavandaia arrivò dicendo di aver perduto parte della biancheria. Odile prese le sue parti con veemenza. Quando scesero in spiaggia, lei rimase a sguazzare nell'acqua seguendo il filo delle onde, come faceva sempre, ma continuò ad allontanarsi lungo la grande spiaggia, diventò un puntino all'orizzonte e sparì. Jules e Jim mangiarono da soli a pranzo, poi a cena, non troppo preoccupati all'inizio. Odile conservava pur nelle sue stravaganze una certa prudenza. A sera sentirono bussare discretamente alla porta. 2 gendarmi scortavano Odile in costume da bagno. Aveva camminato fino a una cittadina balneare, a 1 ora da lì. Se n'era andata in giro in tenuta da spiaggia, cosa proibita dai regolamenti, e aveva provocato degli assembramenti. La polizia era disposta per quella volta a non farla dormire in prigione, ma in avvenire Jim e Jules sarebbero stati ritenuti responsabili di simili infrazioni, conseguenza, multa e espulsione. Odile, perfettamente a suo agio, ascoltava col più vivo interesse quel racconto che Jules le traduceva. Il gendarme più giovane disse: «Questa qui o è matta o è una gran furba». I gendarmi se ne andarono. A sua volta, garrula e ridente, Odile raccontò la sua avventura. Aveva curiosato nei negozi di giocattoli, chiacchierato con i bambini. Concluse: «Donne della città, borghesucce, non belle, gelosi perché uomini guardare me, loro dire, bisogna mettere zingara in prigione». Non ne parlarono più, ma ogni tanto Odile, di punto in bianco, dichiarava guerra ai suoi compagni. Un giorno, assetata di vendetta, provò sul serio ad attentare alla virtù di Jules senza riuscirci. Jim non avrebbe avuto niente in contrario, aveva avuto la sua parte. Si sarebbe a sua volta arrampicato in soffitta. Odile decise di avvelenarli. Quando ebbero attaccato l'omelette fatale, lei disse loro: «Vuoi non trovare sapore strano? Vuoi non diffidare vostra cuoca? Vuoi camminare su sua faccia? Non capire lei furious? Lei, gentile, lei dirvi basta mangiare sta roba?» Non poterono però evitare una colica. Bene o male, le 2 settimane volgevano al termine. Al ritorno si fermarono nella grande città, dove Odile si comprò 4 paia di zoccoli. Jules e Jim commisero l'imprudenza di lasciarla sola a mangiar gelati davanti alla vetrina di un negozio. La ritrovarono indignata, avvolta nella sua cappa spagnola, con la sua filza di zoccoli buttata su una spalla, attorniata come una cantante di strada da un cerchio di spettatori che lei redarguiva garbatamente. «Che cosa volete voi da me? Perché vuoi guardare me come animale botanico? Vuoi non avere mai visto niente? Vuoi non essere molto civilizzati? Se vuoi continuare, io chiamo i gendarmi. Che cosa avere io di buffo? Naso? Bocca? Mantello? Zoccoli?» E indicava col dito quel che nominava. «Quando Jim e Jules tornare, loro battere vostre teste sicuro. Eccoli!» Nessuno la capiva. Jules e Jim fecero la loro entrata. La folla si scostò per lasciarli passare. Loro si avviarono verso la stazione. I ragazzini che gli andavano dietro si dispersero. A Parigi, Odile ritrovò con sollievo i suoi compatrioti e sparì per 15 giorni. Dopodiché ricomparve. Baciò Jim, baciò Jules. Ricominciò ad andarli a trovare un po' meno spesso. Qualche volta al caffè, verso mezzanotte, invitava Jim a riaccompagnarla a casa, dandogli da portare la sua bottiglia di latte. Aveva trovato il dosaggio giusto. Jules parlò a Odile dell'imminente arrivo di Lucie e le chiese di non andare da lui per qualche giorno. Lucie a Parigi. Lucie era stesa sul divano di Jules, il busto sollevato dai cuscini. Parlavano quieti e ricreavano la loro atmosfera. Suonano alla porta. Jules non si muove. Suonano di nuovo, forte. Il vicino di casa va a vedere che c'è. La porta di Jules si spalanca. Appare Odile con la sua solita cappa, ancora più bionda di Lucie. Entra e chiude la porta dietro di sé. «Ah, essere voi, Lucie! Jules aver proibito me venire qui quando esserci voi. E allora io venire apposta. Io molto curious per voi. Io contenta a conoscere voi, anche se voi non contenta a conoscere me. Vuoi essere buona amica di Jules o fidanzata? Basta così, Odile, disse Jules. Va via di qui. Io non andare via di qui affatto, disse Odile. In un attimo Jules fu su di lei, le mise un braccio dietro la schiena, l'altro sotto le ginocchia e la portò fuori, benché lei cercasse di resistere aggrappandosi alla porta con le mani e con i piedi. «Ah!» gridava Odile. «Come lui amare lei! Lui vero uomo per una volta! Lui forte! Lui quasi picchiare me!» Jules la depose sul pianerottolo, tornò dentro e chiuse a chiave. «Parlatemi di Odile», disse Lucie. Jules obbedì, senza accennare in un primo momento alla sua relazione con Jim. Lucie capì al volo. «È così fresca, così ardita. Jim non ha di certo resistito a lei più che a Gertrude». Jim desiderava che Lucie sapesse della sua avventura con Odile. Così Jules la raccontò alla Jules. Lucie ascoltava con aria grave, sorridendo a momenti insieme a Jules. Gli disse «Vorrei prendere il tè con voi, con Jim e con Odile la settimana prossima. È possibile?» «Certamente», disse Jules. Odile, buttata fuori da Jules, si era precipitata al caffè, dove aspettò Jim. «Marvelous», gli disse, «io avere visto Lucie da Jules, lui picchiare me davanti a lei. Lei grande femmina, lei non muoversi sul sofà, non parlare, non battere un pelo dell'occhio. Io ben guardare lei mentre è picchiata. Lei più forte di me. Lei vincere oggi. Ma io rivincita!» E corse via. A Jim sarebbe piaciuto assistere a quella scena. Jules e Lucie gliel'avrebbero raccontata. Avevano stabilito che Lucie avrebbe visto prima Jules da solo a casa sua nel pomeriggio e che Jim sarebbe andato a trovarla in albergo dopo cena. Ci andò con un bisogno improvviso di rivedere Lucie. Entrò nella piccola pensione tranquilla e incominciò a salire le due rampe di scale di legno verso la stanza di Lucie. Sapeva dov'era, ne aveva visto da giù le finestre illuminate. Sentì un trotterellare che lo raggiungeva alle spalle, due braccia che gli afferravano una gamba. Era Odile. Aveva pedinato Lucie da casa di Jules fino alla pensione. Aveva parlato con Jim al caffè, le erano nati dei dubbi, si era nascosta e aveva seguito Jim dal caffè fino alla suddetta pensione dove era entrata dietro di lui. Seduta su un gradino, guardandolo di sotto in su coi suoi occhi blu, soddisfatta della sua impresa, attaccò con aria risoluta uno di quegli interrogatori che le erano cari. «Tu andare da Lucie?» «Sì». «No, tu non andare. Tu restare con me. Stasera essere io tua donna. Tu innamorato per Lucie?» «Io amico per Lucie». Fece uno sforzo per liberare la gamba. Odile salì di un gradino. Tentò di scioglierle le mani. «Tu, Jim, stare a sentire me. Se tu solamente amico, perché Lucie non ricevere te in salotto come signora beneducata? Perché in camera sua? Io per mettere in salotto insieme a me. Se tu volere salire camera senza me, io fare scandalo subito. Io gridare che Lucie tua amante, che io povera fidanzata tua, io crisi di nervi, no buono per reputazione di Lucie». Jim era certo che Odile avrebbe fatto tutto quello che diceva. Nel quartiere passava per pazza, non aveva dunque niente da perdere, e Lucie molto. Rifletté rapido. Odile non doveva conoscere i segreti di Lucie, se ne sarebbe servita troppo. Capitolò, divertito dall'audacia di Odile. «D'accordo, ma devo lasciare due righe a Lucie che mi aspettava». «D'accordo», ripete lei. Seduto in salotto, Jim scrisse: «Gentile signorina, sono spiacente di non poter venire a presentarvi i miei omaggi stasera». «Molto, molto bene», disse Odile che leggeva al di sopra della sua spalla. «Vieni». Consegnò lei il biglietto alla portiera della pensione e tenne Jim sotto braccio finché arrivarono a casa sua. Jim pensava: «Io e Lucie abbiamo tempo. Fra me e Odile sarà presto finita». E si abbandonò a Odile. Il mattino seguente andò da Jules. Si raccontarono a vicenda i fatti del giorno prima. Jules fu dispiaciuto per Lucie. «Siete molto influenzabile, Jim», gli disse quasi con severità. «Molto», disse Jim. «A me Odile non avrebbe osato fare una cosa simile». Jules era fiero di aver buttato fuori Odile con la forza davanti a Lucie e Jim era meravigliato di quel gesto incredibile nella vita di Jules. Jules proseguì: «Io alle donne chiedo troppo e non ottengo niente». «E Magda?» disse Jim. Voleva cambiarmi e conformarmi a lei. Certo, voi le avete le donne, ma loro vi tengono in pugno. Sì, disse Jim, ed è giusto così. Ma chi possiede di più una donna, colui che la prende o colui che la contempla? Ci vogliono tutte e due, disse Jules. Quel pomeriggio Jim andò a trovare Lucie a casa di Jules, che quasi subito uscì e li lasciò soli. Lucie era rimasta sorpresa nel ricevere il biglietto di Jim, di sentirsi dire che questi l'aveva portato la sera prima in compagnia di una signora. Della scena delle scale non si era accorto nessuno alla pensione. Jim baciò le mani di Lucie senza osare accostarsi al viso. Usciva dalla sua palestra di box, dove aveva combattuto un duro incontro come per punirsi. Benché avesse poi fatto una doccia, si sentiva ancora tutto impregnato di Odile. Adesso che era davanti a Lucie, provava un senso di rammarico. «Influenzabile», aveva detto Jules. Parlò di Odile a Lucie, senza attenuare nulla, mettendola implicitamente un po' al di sotto di Lucie. «No», disse Lucie, «non è giusto, è così bella, così selvaggia». Jim sentiva il sentimento che Lucie aveva per lui e che lo rendeva casto in sua presenza. Sentiva anche la pazienza di Lucie che gli faceva quasi paura. Il ritorno di Jules li distrasse. Jim, stremato dal suo incontro di box, chiese il permesso di stendersi sul tappeto come su un prato. Gli fu accordato. Si stese con una spalla a terra, l'altra un po' sollevata. «Sarebbe proprio il momento di metterlo spalle a terra, questo gran conquistatore», disse Jules, che si era avvicinato e ora gli stava sopra. «Provateci», disse Lucie. «Posso, Jim?» disse timidamente Jules. «Sì», disse affettuosamente Jim. Jules prese la mira e si abbatté con tutto il suo peso sulla spalla sollevata da terra. Jim rotolò sul pavimento, sbilanciando Jules, che fu messo spalle a terra. «Avrei dovuto aspettarmelo», diceva Jules, orgoglioso di Jim. «Bravo!» «No», disse Jim, «nella lotta sono un principiante». «E nella box?» chiese Lucie. «Nella box mi difendo», disse Jim. «La box mi piace quanto gli scacchi». Con suo grande stupore, Lucie espresse il desiderio di vederlo tirare di box. Allora queste cose esistevano per lei? Quella sera Jim dormì a casa sua, cioè a casa di sua madre, che aveva lasciato a Jim metà del suo appartamento. Lì non riceveva nessuna delle sue conoscenze del quartiere. Lui e Jules non amavano l'atmosfera di quel luogo per parlare, ma che rifugio per il lavoro di Jim. Nemmeno Odile aveva mai osato violarlo. Jim ebbe voglia di presentare Lucie a sua madre. Come stabilito, Lucie invitò Jules e Jim e Odile per il tè. Odile, felice, fece una prova generale davanti a Jim per essere sicura di comportarsi da vera parigina. Durante il tè, in una pasticceria cosmopolita, parlò della sua eccellente educazione interrotta e fu una via di mezzo fra una principessa esotica e una monella di strada. Lucie le lasciò l'iniziativa e Odile ne approfittò. C'era sul suo viso, allungato quanto quello di Lucie, uno spruzzo di sangue blu e nel suo modo di esprimersi una sonorità raffinata. Ma le espressioni del viso erano rozze. Assomigliava alla Shrimp Girl, la ragazza dei gamberi di Hogarth, mentre Lucie sembrava una fanciulla goetiana. Jules e Jim, tra il gran divertimento e la paura che Odile facesse qualche scandalo, nefasto agli altri in generale e a Lucie in particolare, passarono un'ora molto montagne russe. Odile smise quasi di essere gelosa di Lucie riguardo a Jim, tanto Lucie fu impeccabile e tanto Odile vide l'amore di Jules per Lucie. Odile dichiarò più tardi che Lucie era bellissima, ma anche che aveva paura di fare la speciale. Jim guardò le mani calme di Lucie. Le mani di Odile sembravano pinze, macchine per afferrare. Odile esagerava tutto pur di attirare l'attenzione e i suoi trucchi da pagliaccia, geniali a prima vista, gli parvero mediocri e risaputi come i ritratti che schizzava con pochi tratti di matita. Jules fu brillante e conciso. Memore della serata con Gertrude, Lucie pensò che non bisognava lasciarlo troppo ciabattare, come diceva Gertrude, e di questo si incaricò Odile. A Lucie sembrò che Odile, come Gertrude, non poteva essere per Jim un legame durevole. Jules e Jim, una volta rassicurati, si godettero le domande impudenti di Odile e le risposte pacate di Lucie. Jules sentiva, non senza turbamento, l'attenzione segreta di Jim per Lucie. Lucie e Odile. Odile disse a Jim: «Vorrei tu incontrare mio ex marito». «Bene», disse Jim. lo portò in un atelier lungo e stretto con una gran vetrata. C'era un ex marito, giovanissimo, piuttosto effeminato, che parlava svelto e con precisione. A Jim non dispiacque. Presero insieme il tè, giocarono a scacchi, la partita finì alla pari. Odile, che non ne capiva niente, dava consigli. L'ex marito disse a Jim: «Odile mi ha parlato di voi e del posto che occupate nella sua vita. I miei complimenti. Solo devo avvertirvi che da qualche giorno ci è accaduto a me e a Odile di evocare il passato e di riprendere i nostri rapporti coniugali». Jim vide in un lampo uno sgabello che partiva all'indietro e Odile che scattava come una molla quasi orizzontalmente con le piccole mani dure tese in avanti che afferrarono l'ex marito alla gola e lo rovesciarono. La lampada a petrolio rotolò per terra senza spegnersi. Jim la raccolse e illuminò la scena. L'ex marito era steso supino con Odile a cavalcioni su di lui che diceva: «Tu avrei promesso di dire niente!» «E comunque ormai è fatta», disse lui. Era riuscito a staccare le mani di Odile e a tenerle ferme. Si rialzarono. Lui si spolverò con calma. I due uomini ebbero un attimo di esitazione, poi si strinsero la mano e Odile andò via insieme a Jim. Questo fu per Jim una conferma del fatto che Odile intendeva nascondergli accuratamente i suoi uomini. You want to know how it will be. Me and him, or you and me. You both stand there, your long hair flowing, eyes alive, your mind still growing, saying to me, what can we do now that we both love you? Really see why can't we go on as three? You are afraid, embarrassed too. No one has ever said such a thing to you. Your mother's ghost stands at your shoulder, face like ice, a little bit colder, saying to you, you cannot do that, it breaks all the rules you learned in school. Don't really see why can't we go on as three? We love each other, it's plain to see. There's just one answer that comes to me. Sister lovers, water brothers, and in time maybe others. So you see, what we can do is to try something new. If you're crazy too, don't really see why can't we go on as three?